fare tutta la Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Resto Radio Convento in compagnia delle amiche che vengono da Brognoligo. Brognoligo, è vero, siete voi. Te le metto anche. Ok, ce l'ho fatta? L'abbiamo presa la sposa? Presa. Ok, siamo qui con la sposa Veronica. Sei tu? Ti riconosci? Parlate qua, ecco. Ok. Presente. Veronica, poi abbiamo le Brognolighe, si chiamano così? Ma c'è anche... Sì. Tra l'altro c'è una che fa la bagnina, se non ricordo male. Sì. Ah, c'è, è la Giulia, giusto? Giulia, sì. Giulia, che è la bagnina del fiume? Alpone. A chi? Alpone. Alpone. Quindi se i bagnanti hanno bisogno, ecco... Giulia interviene. Interviene. Poi mi presenta anche le altre amiche con una caratteristica però. Cioè, tipo quella che in parte si chiama e la sua caratteristica. Perché Giulia lo sappiamo che è la bagnina. Però sì. Ecco, voglio sapere anche delle altre, qualcosa in più, giusto, Veronica? Allora, Daniela. Daniela qual è? Ecco, visto che da casa ti vedono, quindi è importante che hai alzato la mano. Allora, Daniela, detta. Non, che fai? Dani. Guarda. Ah beh, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Daniela detta Dani, ok. La sua caratteristica? È una mamma molto brava, ha già due bambini. Ecco, quindi abbiamo il calo degli ascolti qua, perché sono tutti lo so. cercano. Ma è una cosa che ammiro in lei, perché è molto brava. Siete tutte mamme, tutte sistemate. Niente, spegniamo tutto qua perché gli amici a casa. Se... Oddio. Non c'è neanche una single. Sì, effettivamente. Qual è la single? No, non ce ne sono. Allora, nessuno. Diciamo che nel vostro paesello, giusto? È un paesello? Sì. Allora, succede che non ci sono tante cose da fare, immagino. Giusto? No, quanto pare no. E quindi ci si cerca subito di fidanzare, esatto, così. Per passare il tempo, ecco, no. Questi passatempi qua. Tra l'altro la ragazza ha spento la luce sì. Perfetto, tutte e due a questo punto. Ha detto quasi qua, ha detto passatempo, è già partita subito, va in automatico, no? Come si è detto passatempo, ha spento la luce. È un automatismo. Esatto. Si chiama la ragazza, visto? Si chiama la ragazza automatica? Nadia, no, mi guardi come se non no, la conoscessi. È tua l'amica, Sì, sì. Nadia. La disconosci? No. La riconosci? La riconosco. Quindi sì. Nadia, la ragazza automatica. Ok. Quindi abbiamo quella di prima, la mamma si chiama Daniela, la mamma, brava. Nadia, la ragazza automatica. Sì. Giusto, Giulia, la bagnina, ormai quello. Cioè, poi cosa abbiamo? Antonella, la specialità dell'Antonella? Una persona molto solare. Solare? Quindi quando si spegne la luce, al limite si illumina lei. È una ragazza che mette allegria. Proviamo. Si è fulminata. Ha fatto così. Mette allegria? Sì. Quando si spegne la luce, le mette allegria. Ecco. È tutto collegato sempre. Sempre alla luce. Ok, poi cosa abbiamo? Non le riconosco, si nascondono. Queste ragazze vanno giù sotto la cattedra. Sì. Con la luce accesa ancora, però. sono in tilt. Esatto. Perfetto, come si chiama la coppietta lì? Marianna e Elisa. Marianna e Elisa, le ragazze subacquee, le chiamiamo così. Subacquee, va bene. Perché appena abbiamo accennato. E lei, no, aspetta, dalle un po' di tempo che. Ciao! Quella cos'è? Non so. È vostra? No. Voleva salutare così. Questo lo vorreste, ma è un pezzo raro, ecco. Anche no. D'altro, essere qui nella radio sembra di essere dentro. Cioè, in realtà fuori siamo un acquario, no? Tu vedi fuori tipo i pesciolini che vengono dal vetro, ti guardo, visto quello con la banana lì. Anche io ho le banane, però. Anche tu le banane. Mamma mia. Ah, ecco. Sono tante banane. Piena di banane questa sposa, ecco. Veronica è la sposa piena di banane. E poi c'ha anche le antenne che prende Sky, tra l'altro. Esatto. Ecco. Ringraziamo il sistema parabolico che è in testa. Poi vedo un frustino, tra l'altro. Sì. Ecco, la ragazza subacquea è riemersa con un frustino. Cioè. Ha il glitter anche. Cos'è che è il glitter? I brillantini. Ecco, che fai? Sì, guarda che commosso il ragazzo quando gli hai fatto pss, pss, così. ecco, per battere il sedere. Secondo me si girerà. Vai, ecco, ecco, dai, dai, dai. Ecco. Siamo il pubblico a casa. La sposa Veronica sta schiaffeggiando in diretta con un frustino glitterato dei ragazzi fuori dal vetro della radio. Ecco. Sì, facciamo un po' la descrizione per chi non può vedere. Ecco. Poi vi siete passati un po' la cuffia? No, fa niente. No, ma perché è bello. Senti che spegni subito la luce così, eh? Ah, vedi, è tutto un altro. Guarda, è andato in automatico, perfetto, grandiosa la ragazza automatica. Mi piace. Poi cosa abbiamo? Le due gemelle subacquee. Subacquee? Sì, poi. Alessia è quella con la coda da cavallo? Esatto, capelli esatto, lunghissimi. Che facilita la presa questa. Esatto. No, ma veramente c'ha un sacco di capelli. È fantastico. Esatto. Non si può vedere, però c'ha una coda fortissima, bellissima, no? Come la criniera di un cavallo. Come la criniera di un cavallo, infatti. Quindi. Sagala? Aspetta. No, Sagala? No. Cos'è che è? Sagala si dice? Sì. E lei è Sagala? Sei una ragazza Sagala? No, non si dice così a vostro. Cosa hai detto? Scusa? Ripeti. Ah, e cosa hai detto? Ah, no, non hai parlato, me la sono immaginata. Te la sei immaginata mentre fa il cavallo? Ci va il cavallo. Ecco, ricordiamo che è fidanzata, felicemente fidanzata, sposata? No, sposata. Quasi. Tra due settimane? Sì. Fate gara? No. Tu prima? No, dopo. Prima lei. Ah, lei ha già dato però l'addio al nubilato? Sì, sì. Sabato scorso. Sabato scorso cosa hai fatto di bello? Non si può dire, inenarrabile. Sì, una cosa. Non si può dire, non si può raccontare in radio. No. Ok, va bene. Quello che succede è l'addio al nubilato. Rimane l'addio al nubilato. Esatto. Mi piace questa regola ferrea. Poi abbiamo qui il tuo avvocato, no? Ti sta vicinissimo, dici, conferma tutto quello che dici. Sì, come si chiama? La mia badante. Ah, è la tua badante? Ah, perfetto, ecco, abbiamo. No, è una brava. Badante? No, è una brava persona, amica, e diciamo che mi tiene d'occhio perché questa sera magari perdo qualcosa. Attenzione, cos'è che perde? Può perdere le antenne, può perdere le banane. Ah, il frustino, quello ci tenete tantissimo. Anche diciamo che è un caricatore di banane intorno alla vita, si può dire. Spar banane. Sei più armata di Rambo in. Esatto. Perfetto, hai sparato un po' di banane o per ora le tieni tutte per te? No, le tengo per me. Le tieni per te, ecco, mi hai fatto. Esatto, affezionatissima la banana questa ragazza. Sì. Confermi, badante? Sì. A microfono, conferma, sentiamo la voce della badante. Certo, confermo. L'avete sentita bene al micro, alle cuffie? Sì. Ripetilo, sono la badante, come ti chiami? Monica la badante, conferma. Confermo. Monica la badante, conferma. Fai, ti fai le unghie intanto te? No. No. Cioè, ha perso il suo momento di gloria. Così, di gloria, e va a si rotta le scale. Cosa? Ah, ok, no, pensavo. Io? No, sì. Che è quello. Ah, ce l'avete tutte? No. Sì, due, tre. Pensavo che fosse un gadget solo della Giulia, io che è caduto. Ecco, chi andrà a raccogliere il fischietto riemergerà. Riemergerà le subacquee. Fronte, ragazze, vai sotto la cattedra. Le subacquee, scattare. Bellissimo. Voi che fai, spegni? Grande, grande. Tutte le volte che c'è qualcosa, lei interviene. Tra l'altro, senza accorgerci, sono passati 8 minuti di pura inutilità, ragazze. Perché? Oppure di sputanamento assoluto, perché praticamente in tutto il paese ormai. Lei se ne infischia comunque, Veronica se ne infischia di tutto ciò. E dice: va bene, il mio gruppo è questo, le mie amiche sono queste, le ho presentate così. Le ricordiamo nuovamente, anzi, sentiamo la voce. Allora, facciamo il gran finale. Ognuna saluta, va bene? E si presenta. Partiamo dall'automatica, vai. Ciao, sono Nadia. La ragazza? La ragazza automatica. Perfetto, poi così sentiamo la voce di tutte. Ciao, sono Daniela, la mamma. Brava, la brava, brava, brava. Poi? Sono Antonella e sono la solare. La solare, brava, si ricordano tutti. Ciao, sono Giulia e sono la bagnina. Del fiume, come si chiama il fiume? Al fiume Alpone. Del fiume Alpone, è importante, ecco. Allora, le ragazze aspetta che fanno glu glu glu glu un attimo che riemergono. Bagnolo. Stanno riemergendo le due ragazze. Ciao, sono Mariana, la subacquea. Sono Elisa, compagna della subacquea. Perfetto, mi piace che ormai è delle crisi di identità, sei la cavalla te. Certo, attenzione, questa delle crisi di identità, dillo al microfono però, che. Ciao, sono Alessia e sono il cavallo. Ecco. Fai anche perché se non si capisce. Meglio, fallo meglio? Sì. Più cavalla? Adesso scodinzola sulla badante con la coda. No, non col sedere, con la coda. Perfetto, contenta la badante di tutto ciò. Ciao, sono Monica, sono la badante. Eccola qua, fantastica. E Dulcis in fondo. Ciao, sono Veronica, sono la sposa. E tutte insieme formano il gruppo delle ragazze di Regno Ligo. Perfetto, il radio viene benissimo. Ciao.